C'è qualcuno su 10? Ora attenzione 10. Chi sei davanti? Chi sei? Attenzione, binario 10, cambio. Hola. Hola. Attenzione, binario 10, cambio. Hola. Attenzione, binario 10, ascoltate il doppio rum che chiama, cambio. Batmobile, cambio. Hola. Attenzione, binario 10, Batmobile chiama. Come sta arrivando, Anto? Ho piazzato l'apparecchio in macchina, dai. Come va? Gatto a fondo scala, sì. E adesso mi faccio un giretto, dai, voglio vedere. Le stazionarie sono a posto, le ho controllate adesso. E 1-1 e 1-2 al massimo sono in tutti i canali, dai. Già va bene. Tutto alla grande, dai, già va bene, dai. Va bene, va bene. Sto camminando, dai, Antu. Vediamo un pochettino se mi ascolti sempre bene. Ma fra che te ne varia? C'è tutta la bomba, sei qua. A fondo scala proprio. Cazzo, sei forte che tu gaggia. Vabbè, quell'antenna è micidiale, dai. Le ho cambiato il colore. Il colore gliel'ho messo blu perché non mi piaceva rossa e ho beccato una bobina blu e gliel'ho messo blu a tutti. KK. Amo! Da, gira Luchi su giù, come? Ehi, dai una girata. Ehi. Sì, già va bene, quello lì, quello ognuno se lo personalizza. Infatti, no, perché rossa era un po' stravagante, dai. Le ho beccato anche il tappino di sopra da un'altra antenna e adesso è proprio perfetta. Sì, già va bene, già. In che zona sei, già? Adesso sto andando verso il Ponte Nuovo. Sì, scappa, qua sei una bomba, sì. Sei una bomboletta, sei a fondo scala sempre, no, non, cioè, no, non ti perdo, sei tutta bomba. Vediamo in altre zone. KK, dai. E poi magari fra un po' mi dici dove ti fermi, mi dici dove vai. Comunque qua non ho nessun tipo di problema, no, no. E adesso io mi sto recando verso Osi, lo sto andando a vedere come va. Così almeno mi dici se va sempre bene. Se parlo così mi senti? Io ti sento già. Ehi, vabbè, stazione fissa. Stazione fissa come ce l'ho io, come ce l'hanno tanti altri, è un'altra cosa. Certo, se ero stato ancora con un ruccio di coburu lì alla pedonce ti avrei perso un po'. Ti avrei già perso. Ma con l'antenna fissa così sei una cagnonata, sì. No, sto uscendo sempre con la base magnetica, Antu, non ne ho fatto buco. Perché non l'hai fatto? Perché non voglio bucarla la macchina nuova, gli ho lasciato la base magnetica, manda vero Mattesi. Avanti Marco, buongiorno. Mi è sembrato Marco Condor, tu sei Marco. Avanti chi è? Non lo so. Comunque così mi senti, così non mi vedo nel microfono quando cammino. Ma già. Sei sempre a fondo scala, sei qua. Ma la radio com'è? Buona? Buonissima già. Dove sei arrivato adesso? Adesso sono, come si chiama? Sono dopo il posto del semaforo, là. E capa, lì in zona via Gramsci, dai. Non via Gramsci, via degli astronauti. Esatto, via degli astronauti. KK, forte mi senti tu in quella via? Sempre forte e chiaro, Antu, sempre forte e chiaro, questa antenna è micidiale, come avessi avere la mantova sul tetto. KK, no, non ho problemi. Adesso vediamo fin dove arrivo. Allora, l'antenna, l'unica cosa che c'ha è che è troppo lunga, devi stare attento un bel agli alberi, perché se tocchi gli alberi ti facci la macchina. Però se fosse stata con la stessa potenza, un'antenna c'è rosa, mi deve arrivare nera, capito? Quindi sto aspettando che mi arrivi, così provo anche con la mini turbo, me la regolo, mi regolo le stazionali, quando sono in città metto quella, poi quando vado fuori mi attacco la grande. Che già, con quanti watt stai uscendo dell'apparecchio? Io ho sempre i watt dell'apparecchio, penso che comunque ti arriva bomba in quella zona. Io sono sempre con i watt della pista, da un e mezzo sale a 10. Gappa, adesso ti sei appena abbassato, ma cioè sei 9.20, dai, non è più 9.30, sei 9.20, però la radio è sempre 5 a bomba, Cava, microfono normale. K, va, paga una cannonata, va. No, guarda, doveva capire, se no mi incazzavo davvero, dopo che ho fatto mille lavori. Beh, certo, non c'è problema, non c'è già. Aspetta che scendo giù e controllo il sugo. Due minuti, dammi due minuti che sto scendendo giù. Brucia la bagna, mi. Buttaci tutto! E ciao Daniele, buonasera! Per prima cosa a te! Io in primis, buongiorno, saluto nei circolari a tutti! In movimento sei già? Capo in movimento, sì! Vicino a casa magari, no? No, sono... adesso in questo momento sono al quadrato! Capo! Già si vede, già va bene! Ma sarà verso Osino, perché ho piantato tutto adesso, quindi stavo controllando le ultime cose, le stazionarie, tutto quanto è tutto a posto, massimo salgono a 1 e 2, in tutti i canali, Baromi, nei canali alti, in FM, tutto provato. Va bene, segnale ottimo per la truppa, se sei liscio va più che bene. Liscio come l'olio, è l'apparecchio che pompa. Va bene, qua sei oscillante tra 9 e 9 e 10. Gappa, dai, anche qua, dai. Adesso non l'ho visto perché sono sceso un attimino giù e vediamo un po' come va. Dove sei arrivato già? Mi sto salendo adesso verso Osilo, voglio farmi quella salita di Osilo, poi voglio provare a Osilo come va e niente. Voglio provare come va in lontananza, dai. Gappa di Rosmetro. Gappa, c'è qualcuno che voleva entrare e dare un controllino. Sei tutto ma. Non capisco chi sei. Ma lasciati tappare Alessio, c'è in frequenza, tappa di Alessio. Ma che è, buon porco? No, sono sotto casa di Alessio adesso, vicino, là, di fronte. Sì, aspetta. Aspetta. Io che sono più lontano, mi senti sempre già. Adesso sono, sai dove c'è quel casino a Sassari, in via Bardabasso, sto salendo quella salita. Gappa, lo so dove sei. Sì, via Carlo Felice sei, lì, nella Carlo Felice. Via. Esatto, dai, sto imbroccando la strada per Usilo adesso, in questo momento. 9.10 qua Radio 5, tu come mi senti? Sempre a bomba? Sempre bene, Antu, sempre forte e chiaro. Ma noi se uno ti sente di più, no, Antu, non si chiarriare. Capo, no, ma la voce mia è così alta, non ti preoccupare, già lo sai che sono un po' di alto. Che già lo sai pure in deposito che sono sempre a bozze. Stavi zicchierriando prima, a tipo cellulare. Antonio andava bene a prendere al mercato il pesce che non te l'hai mai visto. Eia. Ma dopo proviamo le differenze tra me e Daniele, proviamo le differenze dopo. Ma che bisogno che arrivi tu, Paolo, perché a guardare lo Schmitter adesso non mi ci metto che sono tutte le curve. Dai. Comunque l'importante è che tu non mi perdi mai. L'importante. Vai Daniele. Noi in realtà siamo vicini con Gianni, a me arriva sempre bene. Tu sei quello più lontano adesso. No, io non ho problemi a sentirlo. È sempre 9, 9, 10, 9, 15, dipende in che punto è. Ma penso che non abbia neanche problemi a sentire noi. No, andando oggi non ci sono dei punti che anche con lineare non riuscivo a arrivare a Sassari. Il controllo controllo te lo sto dando, ma c'è plurifrequenza, sì. L'amico che vuole il controllo è plurifrequenza, non riusciamo a sentirti. Ma che altro, qua non arriva nessuno. Cappa, è uno che vuole il controllo, vuole. Avanti. Lo so, sei in off, sei plurifrequenza, sì. Ma non è che sei in FM, no, guarda a vedere. Sembra FM, Anto, lo sono percepito io. In AM vai. Cappa, dove sei arrivato già? Nelle curve sono, Anto, salendo a Ocilo. Vabbè, Santiago 9, Radio 5, a bomboletta qua. Prima ti perdevo, adesso non ti perdo più. Ande, muro, pioru. Lucrezia, bene, sta arrivando. Tutto in radio, Lucrezia. Papà, è pure Luca dalla Tenorce, gli arriva. Poi vediamo da Rizzo dell'Aquila come arriviamo. Gappa, gappa. Luca, ma c'è la Tenorce, c'è la Santana di Pisa, sì. Dai, un attimo, questo verso lo devo portare il cane, io sono qua. Ma a me mi senti, Lucrezia? Sì, ha già 9:10, sei qua. E sto andando a oggi, non sono quasi arrivito, Molte pecorelle ci sono con gli agnellini, curaresti. Appa, e non sei curamanto, va nel manco. A poi dai altro bomba, o lui. Via. Basta mettere le cose seriamente, cavo, schermate e tutto, lo vedi come ti bomba. Lui è con la cosa, con la boomerang. È una cannonata istantanea. Già, il 3009 stai usando? Gianni, il 3009 stai usando? No, ragazzi. Appa già. Adesso vediamo proprio dove ci arrivi. Avanti, Daniele. Riprendete, ci siamo andati in questo 48 io. Adesso, Daniele, vieni qua, come mi schede. Come si dice con la roccia? Senti qua la mia, cazzo. Lucaria, buongiorno. Buongiorno anche a te, caro positivo che parola. Beh, sistemato questo 48. Qua ancora no, c'è un'interruzione e non riesco a trovarla. Lo sto controllando che sto sistemando fili, filette e tutto manicomio in occhi. E dopo quando sono modificati ancora peggio. Perché il cablaggio è lascia desiderare, sto cercando di sistemare un po' di fili per vedere, per capirci qualcosa, se no così non si capisce nulla. C'è un groviglio di fili, boh. E KK, piano piano già la ciappia. 1-1 di stazionare, già va bene. Piano piano dai, sempre bene mi senti Gianni? K, adesso ti sei abbassato parecchio, ti sei abbassato, Forse c'è un punto negativo, ma già ti sento sempre di Santiago 5, A me già, mi ascolti? Vabbè, qua si è abbassato molto anche qua, segnale oscillante da 3 a 5. K, no, io non ti ho mai perso, ti sento sempre. Evidentemente eri in un posto, non c'è problema già. Scappa, quando arrivi su già, poi già ti sente bene. Vabbè che Luca, anche se è mezzo all'albero, però c'ha una posizione meglio della mia. La Tenorce è meglio della mia la posizione. Scappa, sei basso, Santiago 2 sì. Lo so che sei dentro Usilo, ma non c'è problema, comunque già ti sento lo stesso. Luca, ci sei ancora? Adesso con la portata del cane, ci sentiamo dopo. Che è lui? Daniele ti sta chiamando Gianni. Ehi, a Gianni che? Eccolo! No già, stavo funzionando, sto saldando ancora. Gianni, buongiorno, dove sei? Ma con che baracchino sei? E 48 non l'hai messo? E la tappa dove l'hai messa? La tappa dove l'hai messa? La tappa! Ah, ok. Ehi, ma dalle battenza che c'è radio però. Tu che radio c'hai? Sì, perché ce l'ha sotto il microfono, ce l'ha nascosto l'Ocla. Ah, va bene, dai. Già stai arrivando bene. Vai a Ugio, vediamo quanto arrivi, dai. Buongiorno a tutti comunque. Ma buongiorno Ocla, adesso vediamo anche da me che sono più lontano di tutti. Vabbè, come vuoi tu già, pensavo che mettevi quello là. Va bene, dai, fammi sentire, già sono qua in stanza. Ciao, a dopo, buongiorno a tutti, buona domenica. Sì, che ti sento, però per la potenza che c'ha con la radio non sei al top, capito? Ehi, allora. Sì, vabbè, sarà da registrare. da guardare. Sulle stazionali, adesso stavo controllando, massimo 1 e 2 in tutti i canali, anche nei canali alti, tutto 1 e 2, 1 e 3 al massimo. Quindi non l'ho manco toccata l'antenna qua. Non toccare niente, dai, c'è più di 9 qua, non ti preoccupare che già va bene. Scappa, sei 9 anche da parte mia, più forte di radio, guarda, 1, 2, 3, prova. Oh, è fortissimo, dai, solo come ti allontano il microfono, allora, non c'è problema. Allora, Claudio, ho fatto un po' con le sedine leggere, perché c'è il microfono, parla americano, anche così può sparare, sta parlando, così non c'è un microfono. Va bene, già, allora, vai, va bene, scusa per l'intervento, va bene, va benissimo la gamba, dai, tienilo così, ok? Gamba, gamba, così vicino alla bocca, là, dovrebbe uscire una popoletta così. Alla grande, va benissimo, alla grande. Papà, già, mi senti? Ti sento un po' chiaro tu. Papà, e là, qua, qua arrivi, no, poi arrivi, Dove sei arrivato già? Io sono il più lontano rispetto a loro. Osi lei, sono arrivato in centro, dai. Sto salendo adesso al rifugio dell'Aquila. Papà, Santiago 9, Radio 5, a Bomboletta, come mi senti tu in quella zona? Antonio, il segnale mi viene male a guardarlo perché se guarda il segnale mi chiude anche il lupo. Dopo te lo dico quando... comunque il segnale, non lo so, sarà 5 il segnale, ma la radio è buona. Gappa, dai, vabbè, poi oscilla, 5, 6, 7, 8, dipende dov'è poi. Vabbè, comunque, l'importante è che mi senti sempre, che non mi perdi mai. Io sono sempre liscio, sono. E dopo facciamo la prova attaccato per vedere com'è. Tra liscio e attaccato, usilo. Allora, stiamo attraversando il paese per andare verso il rifugio dell'Aquila in alto, dai. Gappa, quasi sempre 9, sì. Una bomba, non ho problemi. Gappa, uia, no, qua già, già arrivi già, a buia, a tutta bomba. Antonietto, Antonietto, mi ascolti cambio? Va, avanti, già ti ascolto forte e chiaro qua. Adesso andiamo a splatterne a coso, a Francesco. Splattera Francesco, splattera. Cava cava. E mi adesso sono in assata, piano piano, mi faccio proprio da alto adesso. C'è la sala, non si può salire, gatto. Arrivo dell'Aquila, non si può fare. E come mai? C'è scritto strada chiusa al traffico, io sto salendo lo stesso da voi. So che ne farà due a che marraggio, no? Non lo so, non lo so, non lo so. Non so cosa sia successo. Break, break. Ciao Antonio, ciao Gianni. Gianni ti sta ascoltando, si può salire e fare l'altra strada. Dal pezzo di Sant'Antonio è franata la strada e fare dalla parte dei ripetitori. C'è un pezzo di strada ferrata e riesce a salire all'ufficio, al rifugio dell'Aquila. Ehi, è tutto chiuso là. No, no, no, non ci vado là. Non so la strada qua, cazzo, è un casino. Non c'è da sbagliare Gianni, anziché la vita ci sono due strade, quella che porti direttamente a Sant'Antonio, che è franata, a sinistra c'è la biforcazione, sali per i ripetitori, vai sempre dritto e non c'è da sbagliare, poi prosegui, devi soltanto girare la chiesa e sali fino al rifugio, ci sono salito anche l'altro giorno tranquillamente, non so se poi adesso c'è fango, sfuggita, perché c'è un pezzo di strada, farai 200-300 metri di strada ferrata dopo i ripetitori. Ascolta, ma quella strada che svolta a sinistra stretta, quella stretta che vai dritto dritto, tu arrivi a un certo punto, c'è scritto strada interrotta, anziché prendere quella parte lì che non si può passare, fiancheggi quella strada, sali su a ripetitori, tu fai riferimento ai ripetitori, come arrivi ai ripetitori hanno fatto un pezzettino di strada serrata per permetterti di collegarti alla vecchia strada. Ho capito. Mi ascolti a me già? Sì, ti ascolto forte e chiaro, ma non che cazzo è una strada stretta stretta, tutta fasciata. Vabbè, già, è la strada dei ripetitori quella lì, non è, l'hanno fatta solo per i ripetitori, ma già ci passi, sono passato con la multipla che è molto larga. E adesso vado, dai, però ci sono un bel di alberi, cazzo, con chi si attende, no, chi ui? No, gli alberi non ti fanno niente, no? Stanno lì tutti. E vai qualche pezzettino, devi stare un po' attento perché c'è la strada un po' disconnessa, dai, vai a tu! Scappa, arriva, no, per Radio 5 mi arriva, non per Radio 5, non ho problemi a sentirlo a Gianni. Sì, allora anche qua il foto, dimmi già, va, prova a parlare. Aspetta, aspetta, no, che cazzo tu canto bussi, oi. 9:20 qua Gianni. Vabbè, pensa che io sono molto lontano. No, considerando che sei in basso, tu lo stai ascoltando benissimo. Non ho problemi sia a me che a te, vabbè, a te ancora di meno perché tu sei più in alto di me. A me non ha nessun tipo di problema ascoltare. Tori, prendo quella strada sternata, così. Ehi, vi siete sovramodulati, 9:25 tutti e due, siete, sì, hai visto i ripetitori, scendi appena appena c'è una discesa, fai quel pezzo di strada serrata e ti ricolleghi alla strada vecchia, quella asfaltata. K. Quasi 9:30 adesso è arrivato Gianni, più sale e più forte arriva, cioè lì è una zona, è il punto più alto della provincia, amico, senza arrivare a Limbara, senza salire in punta Limbara, è il punto più alto, ci sono 800 metri di lì. Ci sa più che verrà tutto vicino un vagone per un passato, è brutto tutta la macchina. Vabbè, io sono passato, era asciutto, dai, piano piano, cammina già, poi ti danno una passata di bomba, le ruote, cosa vuoi ti dica. Ma mi senti Gianni? Vabbè, poi per il ritorno, sempre la stessa strada devo fare. Ehi, ha tutta la stessa strada, puoi fare. Però se vuoi, ti vuoi fare andare a Sant'Antonio, anziché scendere lì, ti fermi nella piazzola di Sant'Antonio e poi ritorni indietro, se ti vuoi fare un collegamento di lì. Sento Gianni, copi il bombolo, cambio. Parate uno alla volta, se no non ci comprendi nulla. Avanti Gianni. Aspetta, aspetta che voglio vedere qua, se non ho sbagliato strada, cazzo. Io dice nel mezzo alla foresta. Quel pezzettino di strada già saranno 300 metri, non di più. E poi ti trovi la strada asfaltata e giri a sinistra, riprendi la stessa strada che avevi, che fai solitamente. Cazzo ogni abuso, se prendo questo fosso mi spacco la coppa. Devi camminare piano, normale già. Deve essere con le piogge ne frenato tutto, perché quando sono andato io era ancora integro, avevano messo un po' di rottame, di ghiaione, dai. Sì, ho trovato il collegamento. Hai visto il collegamento? Giri a sinistra, poi quando scendi, se ti vuoi fare un giro nella chiesa di Sant'Antonio che è più in giù, vai dritto anziché girare a destra, però poi devi ritornare indietro perché la strada è interrotta lì. No, ragazza, come mi senti tu Gianni in quella zona? Forte? Sì, alto, dai, aspetta, fammi salire. Già, non ti preoccupare. Vabbè, bene, mi senti? 9:25 è abbondante. E già va bene, dai. E già lo grido, considerando dove sei è una bomba. Pagata. Ammazza chi ti ne varia, che bumpendi già. Non c'è nessun altro qua su 10, no, sono andato 10 minuti, che sono sceso al cimitero a trovare mia madre, chiuso il cimitero per la letta meteo, sino al 29, ha detto che paga la letta meteo, era ieri la letta meteo, ma non da noi, qua è una bella giornata oggi, ci sta bene, anche a Piazza Italia sono andato, ci sta benissimo. Cosa vuoi fare? Non è tanto di bene la prospera, di bene. Mi pare che ci fate il bello così, un po' carino, mi ti farà male a Platamona, ci sta di più bene. Allora, che ti sto dicendo, mi ho portato il giubbotto, ero in Piazza d'Italia, e mi ho preso il giubbotto che c'era troppo caldo, ho detto no, mi sono sudo troppo, me lo sono tolto, si sta bene, c'è la temperatura piacevole, saremo su 18-19 gradi, al sole poi si sta benissimo, certo se te ne vai in un posto dove c'è vento e coso è diverso, però così a quest'ora si sta bene. Ma dove abiti, Roberto? Ah? Se abiti a Sassari. In campagna abito io. Non so che dice 18 gradi. C'è il termometro fuori, ci sono 14 gradi e mezzo. Di ritralci di sole, ma adesso è nuvoloso. E sta girando anche maestrale. Dov'è questo caldo? Non caldo, piacevole, ho detto, caldo è un'altra cosa. Ero in Piazza d'Italia e c'era il sole e si stava bene di lì. Mi ho tolto il giubbotto perché c'era troppo caldo. Questo è vero, Claudio, segnava 15 gradi poco fa. Io ho il termometro sia fuori che interno. Capito? Fuori ci sono 14 gradi, quindi. Ma 14-15, ma non 18-19. A parte il fatto che stasera dovrebbe dare qualche traccio d'acqua, non qualche fa. Ed è già nuvoloso, se ti affacci nuvoloso nella nostra zona, quindi non è che c'è tutto questo caldo, giornata così, giornata più bella di quella di ieri, ma comunque non c'è caldo. Allora, 15 gradi è la temperatura all'ombra, se ti metti al sole ne avete 18-19 gradi. Poi, se mai sei in una zona ventosa dove il vento tira, cacchio, ti gancareggi dallo freddo, quello è normale. Attenzione, Batmobile, doppio rum chiama. Dove sei già? Al nido dell'Aquila, cambio. Dove ti vedi che arrivando qua? Abbastanza bene. Anche qua, 9.15 abbondante. 9.15 abbondante anche di più. Come mi senti già che sono il più lontano? Aspetta che devo guardare bene. Ci ho agganciato, prova agganciato al suo, è inutile che sono in bottezza. Devi provare sganciato e poi guardi a vedere quanto aumenta. Prova sganciato. Stai dicendo già. No, a me stai dicendo qua. Andate uno per volta. Prova con Gianni, ti ho detto sganciato. E poi fai un passaggio agganciato. Così ti dimostra che il lineare sta funzionando. Aspetta un attimo. Io qua sono, dai. Non mi posso trattenere molto perché sono invitato a pranzo e volevo fare solo questa prova. Dopo aver messo tutto volevo vedere se mi dava soddisfazione o meno. Alla grave già, 9 più 20, sì. Ci rivede mio forte Duca e uno con l'antenna dentro a casa di Raucci. Hola, Gianni! Avanti! Papà, come ti arrivo? Sono sganciato adesso. Sì, Santiago 9, e tu. Ok, perfetto. Adesso passo agganciato tra un po'. E aggancia, aggancia. Io quanto aggancia però. Eh beh, signore mio, non ce n'è per lì. Prova, io quanto aggancia. Antonio, aggancia pure per il zona. Mi do più room, prova a vedere come arrivo agganciato. 6, 9, 10, Antonio. Va bene, dai, già andrà bene. Ma funziona anche con lineare, che ci avevi dubbi? Non so se vuol dire 10 punti, da 9, 9, 10, eh? Da 9 sei tu. Con lineare sta andando a 100 watt e piedi. Va bene allora, dai, va alla grande qua. E non cazzo nulla ne manco vizio, La mazza che ti ne faria. Gianni, quanto arrivo io? Attacco l'Iris, sono cavoli vostri. Gianni, Gianni, mi coppi. Così ti fa vedere i miei. Aspetta Marco, Gianni, rispondi a Roberto. Ehi, dai, vieni avanti, Roberto, dai. 1, 2, 3, prova radio, canale 10, dimmi come mi ascolti. 9.25, Roberto. Ehi, già va bene, dai. C'è Marco, vediamo a Marco, se lui è più favorevole. Marco, vai tu. Ciao Gianni, buonasera, buongiorno a tutti. Nudo e crudo, 3 watt, com'è? 1, 2, 3. Marco, sei quasi 9, dai. Bene, tu sei 9 più 10. Gava gava, l'impianto è riuscito di brutto, vai. Va bene così, me ne posso tornare a casa, sono invitato a pranzo, dai, volevo solo vedere se da questa zona riuscivo a, a bombardare, dai. Con questi segnali arrivavo col lineare attaccato, con l'altro apparecchio. Quindi Gianni, il segnale più alto te l'ho dato io, 9 più 20, Roberto 9 25, io 9 30, io sono con 20 watt, 20 watt e il 140, che tra l'altro è anche freddo, quindi mi sto dando un po' scarsi, 9 più 30, sono sempre il numero uno in assoluto, in tutta la Sardegna, non c'è Cristo, vabbè. Alliero, o cuomane. Gianni è uno dei più forti, cioè com'è quello che diceva, io sono il più forte della Sardegna e uno dei più forti di Sassari. Permesso, permesso. Adesso ti facciamo passare, brofetta, rilassati, non sei batterista, io sono un chitarrista. No, Marco 131 diceva, la Sardegna è divisa in 3 parti, prima, adesso è divisa in tante parti perché le province sono cambiate. Una alla volta e due sono le mie. In questo caso la Sardegna è divisa in 5 punti, una alla volta e 4 sono le mie. Avanti il brofetto. Buongiorno a tutti, saluto nel circolare a tutta la ciurma del 10. Ho acceso adesso, mi è sembrato di capire che c'è Gianni in barra mobile. Sì, Gianni in brofetta, c'è Gianni doppio rumo in barra mobile. Se vuoi chiedere un controllo io mi sto allontanando, vai. Ok, che c'ho roba nel fuoco. Avanti Gianni doppio rumo con Gianni in brofetta. Non è bagaggio la bolletta, amico. Ciao, Marco Condo. Ciao, Natalì. Ok Gianni, va bene, qua va, si vede ti sia passato molto il segnale. Comunque saluto Natalino, Marco, Antonio, mi pare, Claudio e Roberto se non sbaglio. Ehi, ciao Gianni, anche a te ben sentito. Comunque avete visto che Antonio, nonostante sia più in basso, arriva da liscio come me, nove. Perché lui è più lontano, oggi lo la vede meglio. Io ho tutte le palazzine di luna e sole che fanno da schermo. Vai Roberto. Infatti volevo vedere un rapporto tuo per confrontare cosa trattenuano i palazzi, diciamo. Anzi, va bene, dai, va bene comunque. Ok, avete parlato in due, comunque rifacciamo attendere a Gianni che si sta allontanando. Doppio rumate il mic. Eia dai, no, sto salendo, roba in quella stradetta maledetta, devo stare a tenta in fuso. Eia, va bene, dai, infatti è salito 9 più 20 abbondante il segnale tuo. C'era Natalino Alfa 1, Rubio Forti, Risassari Vici, avanti a te. Riprendete voi, dai, non posso parlare. Va bene, chi tocca? Antonio Bombola, te il mic. Antonio? Dai, ci sentiamo dopo che sto cucinando i maccarroni. Super maccarroni. Ha cagato le pantaloni. No, sto cucinando i maccarroni e non posso sorprendere. Ci sentiamo dopo più tardi. Ehi, accianto, buona mangiata, dai. Ok, facciamo riprendere a Claudio, se c'è ancora sono Marco, vai tu. Ma stai girando tu Marco invece. Come Robè? Quello sta girando le macarrone, tu la stai girando. Io mi sto togliendo ancora le cispe dagli occhi, Robè. Avevo cacciavite. Come si sta girando? Come che si dice in sassarese cispa? Cimagga mi pare. Cimagga. Sì. Eia. Va bene. Dunque Robè, confermo, ecco l'X-Data 808. Se tu guardi dietro c'è la serigrafia di quella batteria stilo a siluretto. Confermato. Non è, diciamo, identico al tuo. Cambia anche la forma dei tasti, lo sai? Che in uno sono tutti quadrati e in un altro sono con un profilo rettangolare, quelli numerici. Però per il resto è lo stesso apparecchio, si vede poi. Aspettiamo con ansia. È ordinato? No, sono senza soldi. Cioè, tu pensa che mi sono sputtanato tutto prima, poi è arrivato il Black Friday, mi è arrivato un coupon da Amazon di 15 euro, cioè quell'apparecchio anziché 80 euro potevo pagarlo 65 euro e sono a... senza un soldo. Quindi bruciato il coupon, bruciato il Black Friday con un bel di offerte belle. Peggio per me che ho le mani bucate. Ehi, bisogna stare attenti, di naso cosa amara. Come diceva la padre, di naso come ti di dolore, di avere altri beni. E bruciano in mano. Ehia. Avanti il profeta. Ehi. Benemeda, non so se Natalino mi ha sentito poco fa. Lo saluto dopo tanto tempo, si fa sentire, dai, avanti Natalino. Ciao Rubrofè, è che ero all'ospedale che mi hanno operato, capito? Sono già 3 giorni a casa. In tutto è durato quasi 3 dì la degenza. Da voi di 3 dì mi sono mandato. Auguroni, dai, pronta guarigione e rimettiti in sesto presto, dai. Capo, adesso mi riprendo da questa e poi mi faccio fare quella dell'ernia e così me la tolgo da mezzo. E il tampone è fatto tra l'anno, no? Sì, già lo credo, prima di salire in reparto ti fanno subito il tampone, eppure l'esito subito ti danno, deve essere che li processano lì, perché subito mi hanno dato il foglio negativo e sono salito in reparto, se no non ti fanno entrare, no? Già lo credo. Ok, vediamo se doppio rum c'è sceso in qualche burrone, avanti Gianni. La massa che ti divaria. Cosa hai detto? La massa che ti divaria. Allora, dove sei arrivato? Sto cercando clienti, Roberto. Vabbè, ma se cade dal burrone non so se sia riparabile la macchina. E nemmeno l'olpista. Adesso dai, ho tutta quella macchina. Un po' di sente. La macchina sembra una macchina. Vabbè, ti ho fatto fare una strada nuova, cacca, almeno dici me, ho conosciuto una nuova strada per passare di lì. No, io sono passato anche da poco, ci passo spesso, molte volte vado a fare un giro di lì su. È bella, è una bella zona, c'è aria pulita, c'è un bel panorama, ma io salgo su in cima a Bonaria, a me. Sì, perché io non sono andato lì, sono andato dove vanno le coppiette, lì. Sono andato. sei salito su, però cos'è? Le gambe molli, cioè. Ci sono stati più di una volta lì su, sono andato anche con la mia compagna, lì siamo andati. L'anno scorso, siccome lì fanno il trasferimento del rally mondiale, mettono il ponte ripetitore di lì, si collegano a Monterasso e da lì poi vanno ad Alghero per fare i cronometraggi. E c'è questo ingegnere, non so cos'è, è salito col fuoristrada su, aveva poche di attrezzature, infatti ci siamo fermati a parlare, c'aveva delle direttive collegate con Monterasso e da lì andava verso Coso, verso Alghero, quel monte, non mi ricordo come si chiama, e lì mandavano tutti i dati dei cronometri perché sono collegati via GPS. Le macchine hanno tutti i tempi. Montedoglia? Montedoglia mi pare, no, Montedoglia oppure quello dove, come si chiama quel monte che c'è prima dell'aeroporto che si vede arrivando con l'aereo? Palmavera? Mi pare già Monte Palmavera. Montedoglia non entra nulla, Montedoglia non è giù a Coso, a Porto Torre. No, Montedoglia no, non è da Alghero. John Alghero parlava tanti anni fa, Domenico Cristal, forse sto sbagliando io. Montedoglia c'è l'aeronautica lì su, no, Palmavera ci sono le installazioni TV, credo. Ma scusa, tu che mi sembri più informato, è Monte Palmavera, dove quel monte grosso che si vede, dove ci sono tutte le installazioni delle cose, delle televisioni. Gianni? È probabile. No, Gianni è un profeta, ho detto, il monte che si vede, dove ci sono le postazioni TV per coprire Alghero. Quella è Palmavera, Montedoglia c'è solo l'aeronautica, non c'è nessun altro lì, credo, vabbè. Ma Montedoglia, scusa, non è quel monte dietro Monte Alvaro? Ho capito quale stai dicendo. Se vuoi dire la stessa cosa, le installazioni TV sono a Palmavera, non a Montedoglia. È quello che stavo dicendo, che si collegavano a Coso, a Monte Palmavera, non Montedoglia, quello che faceva il collegamento. Eia. Vabbè, vai Gianni, doppio rum. Sei oscillante, 3-5, 3-5-6, si vede, vabbè, sei in movimento, quindi è normale. Sì, sono in zona d'ombra più che in movimento, adesso sono nella zona bassa. 9+20 qua sei Gianni. Qua sei con lo smitter tilchio, sei a 9. Kappa. Ci sono le montagne da Fatico, non è che... A catenaccia, cacchio, torno al tubo, te l'hai messo, cacchio. No, pensavo ci avessi con la piccolina di mezzo metro, 50 centimetri, dai, 40. Adesso ti sei abbassata a 7, dove sei già? Ti tiro fuori, non è 5 la radio, dal 3 al 4, però ti tiro fuori, lo so, mi ascolti sempre tu. Vai, chi c'è rimasto? Marco, avanti. Gianni, un profetta, te il mic. Eia. Marco sta sparando la gimaga ancora. Allora vuoi un cacciavite? Io ho detto c'ho un cacciavite di quelli a punta stretta. Un monitor ci vuoi. Avanti Marco. Se no li metti un trappo a un avvitatore e attaccato alla sfida a polvere. Doppio room. Dove sei arrivato adesso? 9:10. Ah, ho capito. Qui sei ancora lì. No, pensavo se fossi già uscito dal paese. Come a 120? 120 dove? Non sei a Sant'Antonio, ora stai dicendo, Sant'Antonio a 120, nella discesa. Ah scusa, ma tu non prendi la strada nuova, quella che ti affiancheggia il campo di calcio, che c'è il passaggio a livello per andare a Sassari. Allunghi un beh, eccetera, a parte consumo di carburante, guarda che in 10 minuti c'è a Sassari, neanche, 5 minuti tutto rettilineo. Io l'ho conosciuto da ragazzino, ci sono nato lì, tutte le volte andavamo anche noi a Coso, a Bunari, tutta quella zona la conosco benissimo, c'è quella specie di casetta che si scende, c'è una tradettina e c'era l'acqua buona. Quella dell'ingresso di Usilo, prima di arrivare alla salita proprio dove c'è Mangattia, di lì non prendere l'acqua, non è tanto buona, ha detto da questi amici che lavorano a fianco a me, ha detto la sabbia lì non prenderla con l'acqua di lì. E io. Va bene, ok, vediamo se Marco si ha tolto la cimaga, avanti Marco. Perché la cimanga c'aveva? Quando c'era la cimanga non riusciva a togliere, ho detto veniti con un cacciavite o un avvitatore. Ascolta, va bene la regolazione del 140 così, l'ho abbassata appena appena. Sì, va benissimo, ma infatti ieri secondo me era un po' troppo forte, questa è perfetta, lasciala così. Sì, era sotto la C, l'ho messo sotto la I, capito? Mi sono ascoltato un po' con il 430 e sembra che vada un po' meglio, dai, se no era troppo rimbombante. Buongiorno a tutti, dove sei già? Claudio Pelivella! Ci ho lavorato per 6 anni a Usilo già, conosco tutti i cuzzuri. Claudio, ma sei morto! Sono anche su! Luca Manubrio! Claudio, come ti ho fatto? Luca Caporetta! È tanto! Allora, mi sono la giornata un po' così oggi, un po' uggiosa! un po' uggiosa, KK. Roberto ha detto che dovevi andare al mare, in pari Antonio al bombolo. Al mare Roberto devi andare, ma se non mi ascolta Roberto, boh. No, Antonio Bombolo voleva andare al mare, no? Io ho fatto un giretto così, si sta abbastanza bene. Certo, dopo le due deve stare attento che inizia a abbassarsi la temperatura, se muore un cappotto. Adesso a mezzogiorno sono sceso in piazza alle 11, si sta va bene. Dove sei Luca? Ma sei dalla tua fidanzata? La tua fidanzata sei Luca? Ehi, ok, comunque 9.15 sei qua, arrivi. Va bene, vediamo doppio rumo dove è arrivato, se c'è sceso il vascone di Usilo. Non penso proprio, no. Cercali dall'altra parte. Gianni Pedivella. Chiasso. Gianni Coppola Trogero. Come mi ascolti con la Turbo 2001, Luca? Sei oscillante, 9, 9, 5, 9, 10 sei arrivato anche, arrivi bene. Gianni Turbo 2001. Non ho fatto la brutta scelta, Claudio. No, già va bene. Gianni Turbo 2001. Sì, sotto, io so dove sei. Sei sotto, nella parata sei 9 più 15. Cavagà. Qua è 9, una cannonata. Ha già appena finito di mangiare i maccarroni. Buona reddita. Qua c'era lo Smith che c'era un po' inchiodato questo baracchino, l'ho dovuto aprire, regolare la vittina, però non scendeva, l'ho dovuto poco a poco, cioè, piegare verso il basso, c'è perfetto. Perché lì c'è un dislivello, Lubo, ho preso a corpo quella radio, non lo so, non lo saccio, va bene. Intanto una domanda ti voglio fare. Mangi un bel prezzo tu, minchia, mezzogiorno e mezzo mangi, cazzo, tu metti i dolci, metti i milanesi, la sera, risetti. Vabbè, no, perché dopo dobbiamo uscire, capito già, ma capito qua, dobbiamo un altro aggiungere così oggi, la bella prezzo, il macarrone, cazzo. Minchia, dove sei già? Adesso sto arrivando, dove c'è la fermata del tram, dove ci sono i campi da tennis, ce n'è presente quando scendi da Usilo, che ci sono quelle reti che si vedono, di fronte alla capolinea del tram, so. Minchia, sei arrivato più forte di Antonio, 9 più 20 abbondante. 9.15. Cara, mica vicino a te adesso, qua è la 9 più 30, quel campi da calcetto sono vicino a casa tua, ovviamente. 9.25. Chi è che voleva entrare? Avanti. Ciao Cri, buongiorno. E allora? Ciao Cristian, lo ascolti, doppio run, cambio. Scappa, scendendo da Oslo in questo momento, dai, sto arrivando quasi a Sassari però, sono già in buona zona. Adesso Claudio mi vede sicuramente da qua. 9.40, sì, io lo grido. Andava bene, meglio così. 9.25 Radio 5, a bomboletta, già, 9.25 sei arrivato. Oh yeah, se vede l'impianto che mi ha fatto qua è allucinante, ci ha messo fili professionali, tutto quanto fatto bene, oh yeah, non è come fatto da noi, non sarebbe andata bene fatto da noi, praticamente anche lui ha avuto problemi per infilare i fili, ce l'ho io davanti, ci sono dei punti che sono strategici, ci passa un filo solo, è un casino, Vabbè, dai, comunque già ci è riuscito, ci ha messo un po', ma già ci è riuscito. No, è suo lavoro, non è che è suo lavoro, Noi abbiamo voce a fare impianti del genere, quindi io cosa ti ho detto? Vai da un professionista, ho un bravo elettrauto, tu hai scelto Paolo, io conosco come lavora Paolo, perché a me mi ha fatto l'impianto dell'Audi, me l'avevo fatto lui, mica l'ho fatto io. Non è che andavo a accendere i sigari nell'Audi, no? Ci avevo il VHF da 50 watt in macchina, quindi è chiaro che ci voleva, me l'ha fatto lui lo stesso, quindi è bravissimo su queste cose, non avevo dubbi. Sono contentissimo che tu sei contento, i segnali sono più che ottimi, più che soddisfacenti un po' per tutti, quindi penso che anche tu sei soddisfatto, no? Beh, all'ultimo momento mi è venuto il flash, ho detto mi sa che piazzo chi su anno, perché quello c'ha anche le bande laterali, piace con 20 watt, esce più forte, cazzo va meglio. No, già va bene, dai, va bene, ottimo per la truppa, ho voluto fare un giro apposta per fare la prova, è andata bene, dai. Ecco già, 960, sei sotto casa mia. No, sono al quadrato, Robè. Segnale di Claudio c'hai adesso. Anche qua, 9, sei sopra il 6. Ah, qua sta arrivando fortissimo lo stesso. Sei oltre 9,25. Sei oltre 9,25 qua, qua sei un bel forte, sei. Figurati se poi con un lineare, no? Non mettere niente, lascia tutto così già, ma lo già vuoi dalla macchina, 20-30 watt sono più che sufficienti già, con l'antenna che hai. Qui non vai forti, sta arrivando fortissimo qua. Ma dove senti lì in quelle zone? Bene! Come, quanto te sta arrivando? Già lo so, vabbè, a quadrato siamo attaccati. Facciamo riprendere la doppio, come sta la doppio, appunto, Rubrofetta, già Rubrofetta te mai. Eia, no, no, qua già... Già arriva forte e chiaro, anche se lo smite è tirchio, però è sempre sopra, adesso era sopra il 9, quindi va benissimo, ottimo collaudo e buona risposta. Vabbè signori, io vi lascio, adesso devo andare, dai, ci sentiamo, buon proseguimento, dai, se coincide stasera, ciao a tutti, Claudio, Gianni Piorumo, Gianni Brofetta, Antonio, Marco, eccetera, eccetera, Cristian di Sugitta, te l'ho sentito, ciao a tutti, buon proseguo. Ah, ciao, ciao! Ma se volevo dire in fretta, ce la risentiamo alle prossime, Roberto. Ciao Roberto, ero al telefono io, riprenda a chi vuole, il profeta magari. Eia, ciao Robè, ciao Robè. Buon proseguimento, avanti Marco. Matta che tieni varia, tutto un incidente. Ciao Robby, ci sentiamo, ciao ciao, buon pranzo. Poi mi interessa Claudio da sotto casa a vedere se arrivo più forte dell'antenna che sul tetto o se arrivo uguale. Vai, vai, già sono qua io adesso, vai. Sì, sto ancora. Sì, quando arrivo ne arrivo. Cappa di Rosmetro. Qua stai toccando il 30, stai toccando già, stai toccando il 30. La mazza che ti ne varia. Evidentemente io sono favorevole, sono. Qua stai per toccare i 30, stai toccando. A volte scende, va, adesso come arrivi a ponte si affondo scala, sì. Va bene, dai, ottimo lavoro per Gianni. Avanti Marco, riprendi. E quindi, Anto, come vedi, da liscio arrivavi 9 a Osilo e io 9 lo stesso. Tu sei più in basso e lontano, però più libero per Osilo sicuramente. Io invece sono a ridosso delle palazzine di Bielone Sole e mi crepa, mi fa da schermo. E quindi presso siamo pari. Comunque buono fare le prove, da liscio naturalmente, che è attaccato, vabbè, 2 Santiago in più è buono. Non è 2 Santiago, no. Sono 10 Santiago in più. Uno è 9, l'altro è 9,10. No, non è poco, no. Non è buccia di gioca. No, sono 10 decibel in più, ma sono 2 Santiago. C'è 9,5 e 9,10, sono 10 decibel, Anto. Confondere, Anto, confondere, ragione Marco. Ah, vabbè, non lo sapevo, scusami. Mi sono sbagliato. Non è che non lo sapevo, ma mi sono sbagliato. Oh, comunque va bene, sono soddisfatto. Non è male, dai. Pure io sono soddisfatto. Dove sei Gianni? Ponte Nuovo! Mazza che tiene varia, a fondo scala. Stai facendo il vialotto già? Il vialotto, sì. 9 più 20, non toccare più niente lì, Ti taglio le mani, 9 più 20. A fondo scala, arrivi. Un po' forte arrivi. Qua appena di più c'è. Perché è più vicino a me Gianni, Rubrofetta. Però qua è proprio a fondo, arriva a fondo proprio. Ma il viadotto è lì, è aperto per te, sei lì, cosa? Sei sempre lì tu, essendo lì dove sei, ok, c'è tutto viadotto, tutta quella zona lì bassa, capito? Normale ti arrivi 9 più 30, qua è 9 più 20, io sono molto distante, è un ottimo segnale. È come quando poco qua arriva più forte a te che a me. Ma con me tu, togliti la testa, che non ne puoi fare paragoni anche tu. Nessuno può fare paragoni con me da dove sono. Cosa c'entra che arrivava più forte a te e a me? Tu paragoni non ne puoi fare. Tu paragoni li puoi fare solo con i tuoi vicini di casa e boh. io dove sono non ho problema di ascoltare Gianni Roma 30, ma non ho problema neanche se Gianni dovesse andare ancora più lontano, lo ascolto ancora meglio. Lascia perdere a me, Antu, lascia perdere, paragoni con me non le potete fare. Tant'è vero, amico, che Roberto arriva 5 punti meno di me, 9,25 pure in alto, io arrivo 9,30 con la stessa potenza. E un'altra cosa, dove sono io, lascia perdere. La recezione è completamente diversa. Dove sei già? Sì, sono quasi arrivato a casa, Claudio. 9,15, sì. Questa 9,25 qua, Bobo. Vai a fondo scala. Perché vicino a te? Fondo scala con che cosa? Con un baracchino? Se avessi avuto questo non ti arrivava a fondo scala. È tutto un sistema di quello che stavamo parlando l'altro giorno, capito? Sia della radio che tu hai, sia dell'antenna, sia della posizione, è tutto un giro. Adesso prova a attenuarlo per vedere com'è. Già, riprendi. Ehi, dai, adesso quando sono proprio sotto casa ve lo dico, dai. Pagappa, sì. Sei 9,20 attenuato, sì. Non possibile, Antu, che neanche Antonello Alessi arriva a fondo scala con questo tipo di radio, mentre con i baracchini sia Roberto che Antonello sono a fondo scala, capito? Cioè la differenza nei segnali posso darla io più precisa di voi perché uso questo tipo di radio. Arrivi a fondo scala e un clicca, devi essere sotto casa, sotto proprio sotto casa, allora arrivi a fondo scala, se no i segnali sono reali, anche se ho i miei vicini, capito, sono reali. Tu invece dai fondo scala anche a me, per esempio, perché? Perché stai usando un baracchino e quello è il massimo segnale che dà. Claudio, sono sotto casa, guarda il segnale adesso. Guarda, sei 9,10, penso che è una grande soddisfazione, da dove sei tu, da lì sotto arrivare 9,10 a me. È un ottimo segnale, Gianni, sei più basso di casa, però 9,10 è tantissimo. Ma sei 9,30. Vabbè, lo sappiamo, dai. Se non sei, non tocchi il più, però sei 9,30. Sono in mezzo ai palazzi, Avete parlato in due, altro aspetta, cazzo. Aspetta, è poco così veloce. Cosa hai detto già? Adesso sono nel parcheggio, c'è tutti i palazzi attorno, come ti sta arrivando? 9,15, sì. 9,15. Guarda che tantissimo segnale che ti sto dando io, Preciso, perfetto, sia col 430 che col 140. 9,15. Anche qua. Cava gama, così sono parcheggiato, dai, sotto casa. Va bene, dai, vi saluto tutti cordialmente, ci sentiamo stasera magari, dai, che tolgo tutto e porto tutto a casa che sono invitato a pranzo. Ciao. Ok, okay, dai, qua sei 9,30, Radio 5. Ok. Normalissimo il segnale che dai tu, Antonio, perché chiaramente è più vicino a te. Va bene, però i controlli appunto che voleva Gianni erano in lontananza. 9,15 dal parcheggio di Gianni acqua su è tantissimo, confermi Marco? Caspita, il parcheggio pensa che ce l'ha dietro il palazzo, no? Rispetto a noi è dietro il palazzo ed è anche abbastanza in basso, no? 9,15, ciu. È un segnalone, Se consideri che arriva quanto Antonio Liscio dalla macchina sotto casa sua, Antonio 9,15 Liscio, 9,20 attaccato da casa con l'antenna esterna, veramente un ottimo lavoro, con l'antenna è favolosa, la radio va benissimo, ottimo impianto. Conta che è in base magnetica lui, sbaglio, non ha bucato. No, è in base magnetica, ma messa al centro così, la base magnetica, c'è un bel magnete, è una bella cappotta come la sua che è abbastanza lunga, e cazzo sta andando molto molto bene, poi non ha manco stazionarie. Sì, quella è una volta che la stai bene, stazionaria non ne ha. Sì, ottimo, ottimo. Poi lui da casa arriva, che sono 9,20, 9,25 da Liscio, capito? In realtà 9,20 sarebbe, capito? 5 decibel in più. Da Liscio, tipo 4 watt, 5. Ottimo, veramente ottimo. Beh, almeno è contento, l'impianto è fatto, finalmente, quando esce... c'è tutto attivo, ok. Gianni Lobraffetta, ci sei ancora? Kappa, sono qua, stavo ascoltando, e niente, e cosa volevo dire? Adesso mi sfugge, avanti Antu. Kappa, la mappa che tiene in varia, ma in giù l'ha tutto, guarda. Vabbè, ti ho due passi, ti ho. Ok, già, no, comunque... è una cannonata, chi si antenna con quell'apparecchio spinge forte, io non l'ho perso un attimo, non l'ho perso, è arrivato nella ballata, si è abbassato a 5, poi si riprende e torna, no, non l'ho perso un attimo. E che c'è sotto Antonio? Chi è? Ho sentito qualcuno chiamare sotto Antonio. Chi è che sta facendo l'eroe? Avanti! No, ma era sotto Antonio, sotto, se dico sotto era sotto, non ti stava, non passava, capito? Va bene, va bene. Gianni Profeta ce l'hai attaccato, come io con Roberto Antonello, ma anche Marco, Marco, il segnale più alto di tutti, va liscio, figurati. Cazzo arriva 9 più 30, liscio Marco, 9,40 attaccato. È una cosa allucinante. E lui è in alto, Marco è in alto. E lui può diventare più gatto di busso, gioco. Cioè, io ti faccio vedere la zona, ti faccio vedere e mi dai ragione. Dì, cazzo, ma tu stai scendendo anche troppo forte, stai uscendo, mi dirai. Cioè, tu guardi, cazzo, dove sono io, il gioco 30. Cioè, a confronto, alla via di su, io gioco in basso. Non smetterò mai di dirti che vai più che bene per quello, per la zona che sei, per come ti sei, hai quell'antenna, per la radio che usi, vai più che bene, fai più che bene. Comparazione però con le zone diverse non ne puoi fare, capito? Non ne puoi fare perché c'è una zona molto bassa e poi l'antenna, quello che è, insomma tutto il baravà. Tu immaginati che Cosio, Gianni lo Profeta, arriva più forte di te attaccato, capito? È 9,25 Gianni lo Profeta, tu sei 9 più 15, quando attacchi sei 9 più 20 e lui è 9,25 con 8 watt. Così è Gianni, 8 watt c'ha quella radio. Eia, a strumento sono circa 8. Eia, sì, le sto controllando adesso, sì, quasi 8, dai. Immaginati, è vicino a te, però qual è la differenza tra te e lui, Anto? Che lui è molto più aperto e molto più in alto, tu sei più basso e più chiuso. È lì la comparazione, no, Anto? Non è che ci sono molti discorsi da fare. È di quello ti devi accontentare, e se no è un casino. Però per come sei strutturato, vai benissimo, non bene, benissimo, Anto, non ti puoi lamentare. Sì, no, assolutamente no. Perché quando c'avevo la boomerang, questa è un po' meglio, Quando c'avevo la boomerang pompavo, ma non è come questa. Comunque questa che mi ha dato babbo, a confronto al modello nuovo, è 100.000 volte migliore. Anche ieri mi sono accorto, ho modulato. Con quella lì ieri non avrei modulato. Cazzo, un essere stazionario, una beffa. Vabbè, anche un po' coso. Si è attaccato anche quel pezzo e tutte cose. Però questa comunque è un altro mondo. Mi accorgo, anche di ricezione è un altro mondo. Poi quando la aggiusterò vediamo. Ma guarda, io non ho molta esperienza su quelle antenne, forse ti può rispondere Marco più di me, però tanto per me non cambiano tra una e l'altra, non so qual è la differenza. Marco, cioè, hai capito quali sono le due antenne che c'è Antonio? Perché io di quelle antenne non ne ho mai avuto, ne ho montato una volta a Mauro, alle punti, e il primo vento che ha fatto l'ha spezzata in due. Riprendi Marco. Sì, allora lui ha la Ringolem vecchio modello e la Ringolem nuovo modello. Il nuovo modello l'ha tolta e ha messo il vecchio modello, sempre della Ringo. Sono sempre mezz'onda però, Anto. Però ricordati che queste antenne, per come sono fatte, col vento non durano molto. Cioè cedono meccanicamente, capito Anto? Soprattutto con quell'isolatore, quell'anello di plastica che hanno la base, è la prima cosa che parte, capito? Se volessi aumentare, tu migliorare, potresti mettere una 5 ottavi, capito? Una canna da pesca, una qualsiasi 5 ottavi, anche leggera, anche leggera. Vabbè, tu avrai ragione, però questa...